Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 437, nella quale parleremo di manifestanti cacciatori, ma anche no, migranti con le corna, ma anche senza. Speriamo di avervi incuriosito. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Di fare il punto su alcune questioni che riguardano la politica sia a livello locale che a livello nazionale, sempre sulla questione animale naturalmente. E cominciamo dal nord del nostro paese, dove le giunte delle province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato un disegno di legge che prevede la possibilità di abbattere lupi e orsi se mettono in pericolo non solo l'uomo, ma anche il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale. Questa legge ordinaria dovrà essere ora approvata dai rispettivi consigli provinciali. La norma, anche se approvata dai consigli provinciali, potrebbe comunque essere impugnata dal governo di fronte alla Corte Costituzionale. Beh. Passiamo a parlare di cinghiali e ci spostiamo in Lombardia, dove una ANSA ci informa che gli agricoltori provvisti di regolare licenza potranno abbattere i cinghiali tutto l'anno. È quanto prevede una delibera della Regione Lombarda, approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore all'agricoltura leghista Fabio Rolfi. Questa delibera ci ricorda un po' lo spirito della Lega del farsi giustizia da soli. È una decisione forte, ha spiegato Rolfi, che vuole essere una risposta concreta alla situazione di esasperazione che molti agricoltori sono costretti a vivere. Ricordiamo che Rolfi, assessore leghista, è stato impegnato anche in una campagna a favore del consumo di latte con lo slogan «Basta fake news, il latte fa bene», diffuso dallo stesso Rolfi nell'ambito del World Milk Day. Chiudiamo con il Piemonte, dove è stata approvata una nuova legge regionale sulla caccia, dopo ben 6 anni di vuoto legislativo. La nuova legge non incontra il favore del movimento ambientalista e animalista, ma c'è un piccolo segnale positivo, in quanto in Piemonte l'attività venatoria sarà vietata durante tutte le domeniche di settembre, Questo potrebbe essere l'inizio di un cambiamento che si spera diventi una vera e propria inversione di tendenza a livello non solo locale. Beh. Restiamo in tema di caccia e restiamo in Piemonte. Venerdì 8 giugno a Torino era stata indetta una manifestazione nazionale di cacciatori, allarmati per la nuova legge regionale e per il disinteresse che la contemporaneità sta mostrando verso le attività venatorie, ritenute dai più dannose per la fauna e per l'ambiente, ma anche pericolose per i cittadini. La chiamata è stata abbastanza disattesa. Gli organizzatori speravano in 10 o 20 mila partecipanti, ma la partecipazione è stata molto deludente. Sentiamo il servizio della nostra Roberta Marino. Le cifre ufficiali parlano di 4.000 partecipanti, secondo le loro dichiarazioni invece avrebbero dovuto essere 20.000, comunque tanti, ancora troppi. Nonostante infatti la pratica venatoria sia in declino e 7 italiani su 10 siano contrari alla caccia, i cacciatori sono ancora molti e lo si è visto venerdì 8 giugno quando parte di loro si è data appuntamento in Piazza Castello a Torino davanti al Palazzo della Regione per una manifestazione che da regionale ha assunto carattere nazionale. 11 associazioni venatorie di ogni zona d'Italia con in testa parlamentari e consiglieri regionali soprattutto di destra, Lega e Fratelli d'Italia. Del resto, la linea politica era già ben definita dal titolo scelto, la caccia se desta, dal tono decisamente patriottico e nazionalistico. E mentre da una parte i cacciatori accusavano la regione di limitare la loro libertà di sparare indiscriminatamente, al grido di dignità, dall'altra parte di Piazza Castello un gruppo di attivisti e attiviste antispecisti rispondevano a gran voce con slogan e tamburi ricordando come la caccia rappresenti un mondo di morte, appropriazione e devastazione di fauna e territori, oltre che l'emblema di una violenza macista e strettamente legata all'industria delle armi. La manifestazione dei cacciatori era diretta contro la legge regionale piemontese che vieterà la caccia a 15 specie a rischio nelle domeniche di settembre. Una decisione che sarebbe anche il frutto di una raccolta di 3.000 firme promossa da diverse associazioni animaliste. Tuttavia i privilegi dei cacciatori restano indiscussi per tutto il resto dell'anno e proprio contro questi privilegi era diretta la contromanifestazione dal titolo Né con la caccia né con lo Stato, come ci spiega un attivista che era presente in Piazza Castello l'8 giugno. Che noi siamo contro la caccia in toto, contro la caccia e il suo mondo, questo vuol dire che siamo contro ogni forma di dominio e dominio è rappresentato anche da queste persone che pretendono di difendere la natura in nome della selezione delle specie per non farle proliferare troppo, per non causare danni alle città o agli esseri umani secondo loro, quando in realtà il loro è solo il puro sadismo di sangue, di voglia di uccidere, di sentirsi potenti nei confronti di chi non può reagire nei loro confronti. Il fatto che a quanto pare non potranno cacciare per 4 domeniche a settembre, lo ritenete un risultato? No, perché appunto non è la politica dei piccoli passi che ci interessa, quanto piuttosto contestare la caccia in sé. Non tendiamo a voler abolire una legge piuttosto che un'altra, ma a fare in modo che la caccia non esista più proprio sulla faccia della terra. Roberta Marino, inviata a Torino per Restiamo Animali. Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling. See the state of me. now, that's the bowl where we be chained. Shoot it true, I want you in the picture. That's why I'm calling you, calling you. Politica, questa volta sul fronte nazionale. Segnali positivi vengono dalla nomina di Sergio Costa a ministro dell'Ambiente. Nato a Napoli, classe 1959, Sergio Costa è un generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri, comandante della regione Campania dei Carabinieri Forestali. Ha una laurea in scienze agrarie, un master in diritto dell'ambiente ed è specializzato in investigazioni ambientali. Ha scoperto la più grande discarica di rifiuti pericolosi in Europa, seppellita nel territorio di Caserta, mettendo a nudo gli opachi rapporti delinquenziali nell'ambito dei rifiuti tossici. Ha anche scoperto la discarica dei rifiuti nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, si è occupato del traffico internazionale illecito di rifiuti nocivi ed è stato molto critico con la riforma Madia, che ha sciolto, lo ricordiamo, la Guardia Forestale. Il neo ministro ha nominato Fulvio Mamone Capria presidente della ONG animalista LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, capo della sua segreteria. È sicuramente un segnale interessante. A quasi 45 anni, Mamone Capria ha già ricoperto incarichi istituzionali alla Camera dei Deputati, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla provincia di Napoli, all'ex Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante e nel 2014 ha vinto il premio Margherita Hack per l'impegno animalista. Quindi è una persona che ha già esperienze in ruoli importanti. Sincero e profondo conoscitore degli ecosistemi italiani, Mamone Capria è esperto di legislazione venatoria, zoofila, ittica e ambientale. Il Movimento Animalista, associazione presieduta dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, ha applaudito alla sua nomina. Continuerò a essere presidente della LIPU, ha precisato Mamone Capria, perché non c'è nessuna incompatibilità rispetto alla nomina dirigenziale tecnica, nonostante le critiche di una parte del mondo venatorio, che comunque ringrazio per la maestosa celebrazione che mi sta dedicando su strumenti social e blog vari. È tempo di alzare lo sguardo al futuro, di essere positivi e di migliorare le tutele della natura nel nostro paese. Queste sono le parole di Mamone Capria subito dopo l'investitura. Il mondo venatorio però è in fermento e naturalmente non lo ha accolto benissimo. Su La Dea della Caccia, giornale di riferimento dei cacciatori, si parla di un dicastero animalista. Sul sito bighunter.it si parla di un anticaccia sfegatato e della sua impostazione preconcetta sulla gestione venatoria della fauna. L'imperativo adesso, continua Big Hunter, è vigilare e fare pressione sulle forze politiche a noi vicine affinché prendano posizione. Lega, conclude Big Hunter, se ci sei, batti un colpo. È dunque evidente in che relazione sia la Lega con il mondo venatorio. Thank you. dedicato questa puntata all'attualità nazionale, c'è un tema scottante, anzi potremmo dire ustionante, che non possiamo trascurare, anche per le molte intersezioni che ha con la questione animale. Si tratta del tema delle migrazioni, o comunque, se preferiamo, della ricerca di un habitat più ricco di risorse. Un'esperienza questa che accomuna tutti gli animali al mondo, incluso l'uomo. Mentre la politica si confronta con il dramma epocale di chi si sposta per fuggire da guerre, carestie e miseria, una mucca si è ritrovata ad essere clandestina per caso, facendo una sgradevole esperienza di quello che sono i confini della fortezza Europa. Sentiamo il servizio a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Parlare di confini in Europa di questi tempi è molto pericoloso e al tempo stesso decisivo. Il tema è incandescente a causa della cosiddetta emergenza migranti e del risorgere potente del nazionalismo, oggi pudicamente chiamato sovranismo, forse per scacciare i cattivi pensieri associati nella storia europea a una ideologia che fu alla base delle carneficine che abbiamo chiamato Prima e Seconda Guerra Mondiale. Una paradossale quanto rivelatrice storia di confine ci porta in Bulgaria occidentale, dove una placida mucca di nome Penka, alla fine di maggio, passando di pascolo in pascolo, si è ritrovata in Serbia, diventando di colpo clandestina ed extracomunitaria, secondo il lessico corrente. Il padrone dell'allevamento nel quale Penka era rinchiusa, il signor Ivan Aralimpiev, è andato a riprendersi la mucca oltre confine, ma una volta giunto al posto di frontiera bulgaro, l'animale è stato sequestrato perché privo di tutti i documenti sanitari prescritti dall'Unione Europea per l'ingresso di animali extracomunitari. Penka è stata quindi messa in quarantena in vista di un probabile abbattimento. In nome della sicurezza, come ben sappiamo, l'Unione Europea sa essere molto dura. Il signor Aralimpiev non si è dato però per vinto e ha giocato d'astuzia, sollevando un caso mediatico. È partita una campagna sotto l'hashtag Save Penka, salva Penka, alla quale ha aderito perfino Sir Paul McCartney, leader dei Beatles e baronetto. Una petizione internazionale ha poi raccolto più di 30.000 firme e i media di numerosi paesi hanno parlato di Penka, invocandone la salvezza. La storia ha avuto un sostanziale quanto problematico lieto fine, perché è vero che le autorità bulgare, constatata la buona salute della mucca diventata improvvisamente extracomunitaria, l'hanno riconsegnata al signor Aralimpiev, ma sappiamo anche qual è la sorte di un animale d'allevamento. E dal canto suo l'Unione Europea si è salvata dal ridicolo nel quale stava cadendo, e però questa storia rivela un male profondo che sta divorando il sogno federalista. L'innocente Penka, con la naturalezza e la libertà tipiche degli animali, ha messo a nudo l'insensatezza e l'ingiustizia di norme che pretendono di trasformare creazioni umane come i confini in leggi di natura. Nel caso di Penka si è stati in fondo ragionevoli, riconoscendo alla fine che un pascolo è solo un pascolo, a prescindere dai confini tracciati sulle carte, e che una mucca non è che una mucca, quindi un individuo in cerca di risorse per alimentarsi e vivere. Ora dovremmo però chiederci perché non riusciamo a considerare l'Europa per quel che è, un territorio come un altro, e le persone per quel che sono, gente che si muove, si sposta, supera i confini perché vuole semplicemente vivere. Esce in questi giorni il nuovo album di Johnny Marr che si chiama Call the Comet, un album musicalmente molto interessante che ci riporta al sound un po' dei mai dimenticati Smith, con dei testi dal tema politico, magari meno famoso del frontman degli Smith Morrissey. Anche Johnny Marr comunque gode di un ottimo seguito, come si può vedere dalle vendite del suo memoir che si chiama Set the Boy Free. Da questo album ascoltiamo uno dei singoli, Hi Hello, e come si potrebbe dire, senti Omar quanto è bravo. Buon ascolto. nella rubrica di cucina Il Pasto Gentile, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ha dedicato la ricetta di oggi proprio a Penca, la mucca clandestina per caso. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Quanti di noi hanno gioito alla notizia del salvataggio della mucca Penca? Molto probabilmente non tutte queste persone seguono un'alimentazione a base vegetale. Allora immaginate quante mucche potreste salvare togliendole dal vostro menù. E per questo motivo tiro fuori dal mio cilindro la ricetta del veghello stonnato. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di farina di ceci, 200 g di farina di glutine o instant seitan, un cucchiaino di olio di semi di lino, un cucchiaio di alghe a rame, 2 fette di pane integrale, un cipollotto fresco, uno spicchio di aglio piccolo, un cucchiaino di capperi, un cucchiaino di crema di olive verdi, un pizzico di origano, mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaio di vino bianco, 100 g di maionese vegan e olio extravergine di oliva. Mettete in ammollo le alghe in 300 ml di acqua. Scolate e conservate l'acqua che frullerete nel mixer assieme a metà delle alghe, l'altra metà la conserverete per la salsa. Unite la farina di glutine a quella di ceci ed impastate con l'acqua e l'alga. Unite anche l'olio di semi di lino e un po' di sale. Fate riposare 10 minuti, dopodiché lavorate con le mani umide e formate un cilindro che avvolgerete in un panno. Legate il tutto con dello spago da cucina e fate cuocere in un brodo vegetale per 45 minuti, lasciando poi raffreddare il muscolo di grano all'interno del brodo. A parte ammorbidite il pane integrale nel vino, il succo di limone e l'aceto. Nel bicchiere del mixer unite il pane senza strizzarlo, la rimanente alga, l'aglio, i capperi, l'origano, il cipollotto fresco, la crema di olive, il concentrato e poco olio extravergine di oliva. Fate frullare bene e aggiungete la maionese. Frullate ancora fino ad ottenere una crema liscia che lascerete riposare in frigorifero per un'ora. A questo punto slegate ed affettate finemente il muscolo di grano e coprite con la salsa. Guarnite con qualche cappero, prezzemolo tritato e fettine di limone. Know that I am plain to see, yeah, yeah.